Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.06 e 30 secondi, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Focus Economia, il punto della giornata economico-finanziaria di Radio 24, una giornata discreta per quello che riguarda i mercati finanziari, la borsa, l'Europa a mezz'ora circa dalla chiusura delle contrattazioni ha un quadro contrastato, Milano cede lo 0,21%, ci sono naturalmente delle storie da raccontare, il peggior titolo è Parmalat, in questo momento perde più di 3,5 punti, il migliore media 7+4,30. C'è da segnalare su Wall Street, in particolar modo sullo Standard & Poor's, un leggerissimo calo, -0,08%. Cosa vuol dire? Un consolidamento dei record toccati venerdì scorso. Il mercato americano macina appunto punti su punti. Che cosa c'è dietro tutta questa spinta sul mercato azionario? Lo spiegheremo nel corso della trasmissione. In realtà il tema l'abbiamo affrontato tante volte, è sicuramente tutta la liquidità che è in circolazione grazie alle operazioni delle banche centrali, ma cercheremo di capire se c'è anche qualcosa in più, se comunque anche lo stato di salute delle aziende quotate appunto è incoraggiante o se in realtà stiamo qua alimentando una bolla che è destinata a scoppiare. Non vorrei che invece dello spread italiano il problema autunnale fosse appunto lo scoppio della bolla sul mercato azionario americano. Lo analizzeremo nel corso della trasmissione. Di quali altri temi parleremo questa sera? Un tema che in genere piace molto ai nostri ascoltatori quando vedono queste o leggono di queste operazioni appunto che in realtà poi non vengono tanto viste invece da chi ne viene colpito. Mi riferisco ai blitz delle città più rinomate per quello che riguarda il turismo italiano da parte dell'Agenzia delle Entrate. Negli ultimi giorni è toccato alle top, alle star appunto di queste aree: Capri, Portofino, Santa Margherita Ligure. La finanza, con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, a caccia dei furbetti dello scontrino, titolo nei giornali di questa mattina. Cercheremo di capire che risultati portano operazioni di questo tipo, che naturalmente poi vengono contestate, lo dicevo, dai sindaci direttamente interessati, che non ne vedono assolutamente di buon occhio, anzi contestano vivamente questa spettacolarizzazione della lotta all'evasione fiscale. Poi parleremo di una bella operazione della quale si è resa protagonista una società italiana, la Tamburi Investment Partners. È una banca d'affari italiana indipendente quotata in borsa. Oggi, tramite una sua controllata, ha acquisito il 14% di Ruffini Partecipazioni. Chi è, direte voi? È la società che controlla il marchio Moncler, quello dei giubbini, come sapete, dei paninari degli anni Ottanta. In realtà è un'azienda molto florida che nasce in Francia. È un'operazione appunto da 103 milioni di euro e quindi insomma un po' di fermento anche in Italia. Per fortuna, per una volta tanto parliamo di una società italiana che va a caccia di una preda appunto straniera e anzi la conquista, la cattura. Per tutti i vostri commenti sui temi del giorno, 349 238 6666 è il numero appunto per i vostri messaggi. Adesso andiamo a vedere le altre notizie in breve. Cominciamo con le materie prime. L'oro sopra i 1300 dollari l'oncia questa mattina sui mercati asiatici. Il petrolio a New York ha aperto in calo rispetto all'andamento delle ultime giornate della scorsa settimana. Oggi siamo a 105,92 dollari al barile. Ricorderete, settimana scorsa era stato risuperato il livello di 107 dollari. Abbiamo avuto alcuni dati macroeconomici oggi dagli Stati Uniti. L'indice ISM, un indice che va a monitorare l'andamento del settore dei servizi negli Stati Uniti, a luglio è salito a ben 56 punti da 52,2 di giugno. Il dato è superiore alle attese degli analisti e poi soprattutto viene confermato largamente questo andamento al di sopra dei 50 punti, che come abbiamo spiegato tante volte è quello spartiacque che separa appunto la contrazione economica dall'espansione economica. Quindi sopra i 50 punti espansione, a 56 insomma l'espansione è piuttosto buona. E poi c'è un'altra buona notizia che è stata diramata da Fitch Rating, la società appunto di rating che per una volta tanto non ha bocciato nessuno, ma anzi ha condotto questo monitoraggio che ha avuto anche una conclusione interessante. Le insolvenze di privati negli Stati Uniti sono diminuite nel primo semestre di quest'anno del 13,7% e praticamente sono state 532.290, lo scorso anno nello stesso periodo erano state quasi 617.000. In questo rapporto Fitch prevede che il dato sia in calo a fine 2013 per il terzo anno consecutivo, portandosi ad un livello registrato soltanto due volte negli ultimi 20 anni. L'indice PMI invece composito dell'Eurozona, che va a monitorare anche in questo caso l'andamento dei comparti servizi e manifatturiero insieme, a luglio è salito a 50,5 punti da 48,7, questo sì che è un buon dato europeo, perché qua si ritorna, non viene consolidata la soglia dei 50 punti, ma si ritorna sopra i 50 punti e quindi appunto una buona notizia che naturalmente oggi ha incoraggiato anche per certi versi il consolidamento appunto dell'andamento degli indici di borsa. Allora, è terminata intorno alle 15.30 la colazione di lavoro fra il Premier Enrico Letta, il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco e il Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni. Che cosa è stato detto in questo vertice che era molto atteso? Si sono confermati segnali di miglioramento per l'economia, ma c'è la necessità di consolidarli, hanno detto tutti unanimemente. Si sarebbe dunque ad un punto di svolta, secondo le indiscrezioni trapelate al termine appunto di questo vertice, ma la ripresa, hanno detto tutti e tre, sarà graduale. I segnali sono reali, sono però necessarie politiche di continuità con le scelte fatte per favorire la crescita. Ed è questa appunto l'analisi svolta durante il vertice Letta Visco Saccomanni. La ripresa, si aggiunge, è figlia, avrebbero detto, anche della stabilità sui mercati. E c'era naturalmente anche qualcuno che ha chiesto qualche commento sulla solidità delle banche italiane. Tutti e tre avrebbero detto appunto che le banche sono solide, ma nel sistema persistono aree di difficoltà. Oggi è ripreso nelle commissioni affari costituzionali e bilancio del Senato l'esame del decreto fare, atteso appunto in aula oggi pomeriggio alle 17, quindi proprio in questi minuti. Nella seduta notturna di venerdì erano stati approvati una ventina di emendamenti, tra gli altri uno che ha fatto molto scrivere in questi giorni molti colleghi sui giornali, l'addio al fax per la pubblica amministrazione e la moratoria fino al 15 settembre per il pagamento delle concessioni per le spiagge. Restano però ancora diversi nodi da sciogliere. Fra le cose importanti approvate è stato cancellato il DURT, il documento unico di regolarità tributaria, introdotto alla Camera appunto con un emendamento. Alcune buone notizie oggi per le imprese italiane, qualcuna ne ha data anche Maria Piera Ceci nel corso del giornale radio. Nelle prossime settimane oltre 3.000 imprese riceveranno il rimborso di crediti IVA per un importo di circa 500 milioni messi a disposizione dal Ministero dell'Economia. La notizia è stata data dall'Agenzia delle Entrate e quindi salirebbe a 7,7 miliardi di euro, la somma rimborsata da inizio 2013 ad oltre 33.000 imprese. Le entrate tributarie erariali registrate nel periodo gennaio-giugno, sempre di quest'anno, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 197.029 milioni di euro, registrando così una crescita del 3,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo comunica anche questo il Ministero dell'Economia. Ma nel rapporto appunto divulgato dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze poco fa, ci sono anche altri dati, ve li leggo velocemente. Cala il gettito IVA, questa è la cartina di tornasole dell'economia. Nei primi sei mesi di quest'anno risulta in calo del 5,7% e quindi in sostanza il sistema avrebbe perso circa 2.866 milioni di euro. Questa circostanza riflette appunto la riduzione del gettito derivante dalla componente relativa agli scambi interni e del prelievo sulle importazioni, ma si segnala anche un rallentamento della dinamica negativa del gettito IVA sugli scambi interni, che a giugno invece è cresciuto. Inflessione del 6,5%, sempre nei primi sei mesi di quest'anno il gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, legata in parte al calo dei consumi determinato dalla diffusione delle sigarette elettroniche. Ancora un altro paio di dati, le entrate tributarie che sono derivanti dall'attività di accertamento, tema del quale parleremo più avanti, e controllo, risultano pari a 3.655 milioni di euro, 329 milioni in più rispetto appunto al pari periodo dello scorso anno. A conferma, dice il Ministero dell'Economia, dell'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione. Infine, la dinamica delle entrate tributarie erariali nei primi sei mesi dell'anno, a fronte di segnali di graduale stabilizzazione del quadro congiunturale, sembra avviata, dice il Ministero, verso un percorso di miglioramento. Allora, sono circa 28.616 le persone, coloro che attraverso il sito internet di IKEA hanno inviato la propria candidatura per partecipare alla selezione per le assunzioni nel nuovo punto vendita di Pisa, che occuperà circa 200 addetti, e questo ce la dice lunga appunto sulla ricerca di lavoro da parte di molti italiani. La notizia è stata proprio divulgata dall'azienda, l'ufficio risorse umane di IKEA Italia, si legge nella nota che il gruppo ha divulgato. Ha iniziato lo screening e quindi sostanzialmente la selezione dei curriculum ricevuti alla ricerca di quelle competenze che rispondano alle necessità professionali delle funzioni richieste, ovvero servizi alla clientela, vendita, logistica e servizi di ristorazione. Un'altra notizia prima del nostro primo approfondimento di oggi: il primo semestre di quest'anno, quindi giugno 2013, si chiude con un decremento degli investimenti pubblicitari del 17,4% per un ammontare totale di 3 miliardi e 355 milioni di euro investiti in comunicazione dalle aziende italiane, quindi in calo di poco più di 706 milioni rispetto alla prima metà dello scorso anno. Questo è l'andamento rilevato dalla società Nielsen. Lasciamo l'andamento della pubblicità, andiamo al primo tema di oggi e parliamo di una società che va ad acquisire il controllo di una grande azienda del gruppo Moncler. Allora, mi sono già presa subito una strigliata da parte di un ascoltatore che dice: guardi che l'azienda Moncler è italiana, è vero, perché è controllata appunto dai Ruffini, perlomeno prima dell'operazione appunto di cui parleremo adesso. In realtà è originaria della Francia, tutta una storia, appunto la nascita di questo giubbino così famoso, ma adesso ci facciamo raccontare tutto da Giovanni Tamburi, presidente e amministratore delegato della Tamburi Investment Partners. Presidente Tamburi, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qua, perché sai, io subito avevo detto per una volta tanto parliamo di un'azienda italiana appunto che conquista un'azienda straniera, però diciamo un marchio originariamente straniero, mettiamola così, ho detto adesso forse meglio? Esattamente. Eccoci qua. Senta, allora, l'ultima volta che noi l'abbiamo intervistata, l'ha fatta proprio da questi microfoni Sebastiano Barisoni, con lei avevamo commentato l'operazione appunto di Hervé Mache francese su l'oro piana, e lei ci aveva promesso presto, io vi racconterò, di un'operazione che riguarda direttamente la banca d'affari appunto che presiedo. Allora, come è nata questa operazione appunto che mi pare sia prevalentemente finanziaria? Voi siete andati appunto attraverso la vostra controllata Club 7 ad acquisire il 14% di Ruffini Partecipazioni, che a sua volta è la società controllata da Remo Ruffini, che detiene il 32% del gruppo Moncler. Ho ricostruito correttamente, Presidente? Perfettamente. Ecco, allora, Club 7, sì, no, mi scusi, la interrompo, poi la lascio parlare. Club 7 l'avete proprio costituita appositamente per questa operazione, o mi sbaglio? Esattamente, noi da anni, da quando facemmo un'operazione su Interpump 11 anni fa, abbiamo l'abitudine di fare questi veicoli ad hoc nei quali investiamo noi, in genere con una quota leggermente superiore a quella degli altri, e poi coinvolgiamo degli altri coinvestitori che tipicamente sono famiglie azioniste della nostra società da anni, che oltre a essere nostri soci gradiscono essere stimolate su singole operazioni. Poi facciamo un veicolo ad hoc, veicolo societario che tendenzialmente dopo 2, 3, 4, 5 anni viene autoliquidato e vengono consegnate le azioni in genere quotate in borsa ai singoli soci. Al di là di tutta questa, diciamo, costruzione finanziaria, che credo che gli ascoltatori di Radio 24 interessi non tantissimo, direi la cosa importante è che la nostra società insieme a questi co-investitori, si affianca alla famiglia Ruffini per rendere sempre più importante il controllo, il peso sul gruppo Moncler. Come credo tutti sappiano, Moncler oggi ha come azionista maggiore, non maggioritario, ma maggiore, un fondo francese che si chiama Eurazeo, poi c'è la famiglia Ruffini e poi c'è un altro fondo americano che si chiama Carlyle. Nei prossimi mesi, se i mercati finanziari lo consentiranno, la società andrà in borsa e la famiglia Ruffini, grazie a questo affiancamento anche con noi, vuole essere in posizione di far vedere che rafforza la propria quota possibilmente, per cui non solo tendenzialmente non è disponibile a vendere azioni, ma si pone nelle condizioni semmai di aumentare la propria quota in modo tale da marcare questa presenza forte italiana in una società così importante che ha avuto tanto successo in questi anni. Ecco, Presidente, voi per realizzare questo investimento avete utilizzato sostanzialmente la plusvalenza incassata dalla cessione della catena dei magazzini francesi Pritemp, che è un'operazione della quale abbiamo avuto notizia proprio al termine della scorsa settimana, quindi già da lì dovevamo immaginare che qualcosa bollesse in pentola. Ma da quanto appunto stavate studiando l'operazione Moncler? Perché Moncler? La stiamo studiando da alcuni mesi, e come sempre queste operazioni sono piuttosto articolate e complesse. Perché? Ma innanzitutto perché la nostra è l'unica holding finanziaria d'Europa, e questo ci tengo a sottolinearlo, che in questo momento controlla 9 società leader mondiali nei loro settori. Abbiamo soprattutto aziende tecnologiche, nel senso che siamo i primi azionisti di Prismian, i primi azionisti di Interpump, i secondi azionisti di Datalogic e di Amplifon e di altre società di quel tipo. Dopodiché siamo entrati nel design, nell'arredamento di alto livello con Roche-Beaubois, società francese, qualche mese fa, e in effetti, come qualcuno ci ha spesso detto, manca nella vostra costellazione di aziende leader qualcuno nel settore della moda e del lusso. Abbiamo ritenuto che in questo momento un'azienda bella, in sviluppo, importante, guidata da un grandissimo imprenditore come Moncler fosse la mossa giusta. Ci siamo messi d'accordo e abbiamo fatto l'operazione. Quindi avete applicato alla lettera, come dire, la regola della diversificazione del rischio nel panorama degli investimenti, Presidente, mi pare che avete aggiunto appunto un tassello che mancava in qualche maniera. Esattamente. Senta, allora, ci ha appena adesso elencato tutte le società nelle quali appunto avete delle partecipazioni non solo rilevanti, addirittura appunto piuttosto importanti, quasi da controllo. Tutte queste operazioni non le avete fatte appunto ieri né nell'ultimo anno, ma insomma sono generalmente operazioni per investimenti di lungo periodo, come lei ama spiegare. Credo che sia questa anche la ragione alla base dell'investimento in Moncler. E però adesso stiamo parlando, quando commentiamo un po' l'andamento dei mercati finanziari, di tutta questa grande liquidità che c'è in circolazione. Anche questo aspetto favorisce i vostri investimenti, Presidente Tamburi, o voi, come dire, vi muovete secondo logiche diverse? Ma in parte diverse, cioè i nostri co-investitori e noi stessi abbiamo una logica che prescinde dalla liquidità momentanea dei mercati, eccetera, perché noi abbiamo innanzitutto sempre avuto una posizione finanziaria netta positiva, cioè sempre soldi in cassa. Non dobbiamo raccogliere dei soldi ogni volta per fare le operazioni. In più, se vanno fatte operazioni, come per esempio la più grande che è stata fatta, è stata su Prismian, dove abbiamo dovuto mettere insieme circa 200 milioni di euro, chiamiamo a raccolta alcuni dei soci più importanti e facciamo queste operazioni. Direi abbastanza a prescindere dai momenti di liquidità dei mercati, anche perché le famiglie, i family office che sono accanto a noi e noi stessi, guardiamo veramente al medio-lungo termine e non guardiamo alle situazioni di breve. Ecco, e dopo Moncler c'è già qualche altra idea per diversificare ulteriormente il vostro business? Così guardi, tanto anche per avere un'idea di dove si annidano, come dire, le occasioni di investimento interessanti che possono valere per voi, ma magari anche per un investitore di più modesto taglio. Ma guardi, stiamo normalmente vedendo in questi ultimi 2-3 anni 40-50 dossier in contemporanea, però siccome siamo molto selettivi facciamo 2-3 operazioni all'anno. Direi che le operazioni rilevanti di quest'anno, Roche-Beaubois e Moncler, sono abbastanza importanti. Adesso ce ne andiamo in vacanza abbastanza sereni, la dismissione di Printemps ovviamente ci dà anche ulteriori munizioni e poi in autunno vedremo. Quello che posso dire è che appunto la società TIP, come società quotata in borsa ormai da quasi 10 anni, rappresenta in sé un insieme, una piccola conglomerata di investimenti diversificati in aziende leader, e per cui di per sé è uno strumento che accompagna le aziende nello sviluppo, accompagna le società italiane ma anche non italiane, quotate ma anche non quotate, a fare dei progetti di crescita particolarmente ambiziosi. Certo, voi appunto andate avanti per la vostra strada secondo logiche finanziarie abbastanza indipendenti anche da un po' da quello che accade nel mondo, ma Presidente, chiaramente oggi stiamo parlando dell'acquisizione di un'azienda, adesso mi viene di definirla un po' così, italo-francese, anche se forse la definizione non è corretta, però prima parlava appunto, e ribadisco questo aspetto, di partecipazioni importanti in aziende italiane importanti che a loro volta poi chiaramente diversificano il loro rischio sui mercati finanziari internazionali. Tutto questo per arrivare a dire, è difficile operare in Italia, secondo lei la preoccupa il rischio Italia, il rischio paese? Onestamente mi preoccupa perché pone molti vincoli e per cui sono d'accordo con Marchionne quando dice che in Italia operare è difficile, però le nostre stesse aziende dimostrano che si può lavorare in Italia, cioè un'azienda come Moncler che negli ultimi anni è cresciuta nel mondo moltissimo, o aziende come ho citato prima, Prisma, Interpump, Datalogic, Amplifon, dimostrano che pur avendo un cervello italiano ci si può sviluppare nel mondo, per cui certamente i vincoli sono forti, l'handicap con il quale partiamo è forte, ma gli italiani sono bravi. Non dimentichiamoci che l'Italia fa un record di esportazioni quasi ogni mese e anche l'anno 2012, che è stato considerato un anno così brutto, è stato un anno in cui l'export è andato molto bene, per cui una forza industriale e commerciale l'Italia ce l'ha, società come la nostra vogliono intercettare questi successi, per il momento ci stiamo riuscendo ed è un momento che dura da una ventina d'anni, speriamo di continuare così. Avete avuto bisogno anche di banche per fare questa operazione oppure, come ci diceva prima, avete fatto tutto integralmente con la liquidità disponibile nella vostra cassa? Allora, tatticamente ci siamo organizzati per avere anche delle linee bancarie perché non eravamo certi che i soldi dell'operazione Parentà non arrivassero in tempo e per cui non volevamo dismettere alcune una sorta di ponte, ecco. Ecco, e per cui per tranquillità e serenità di tutti ci siamo organizzati per avere questo. In realtà non abbiamo avuto bisogno, ma non solo, il nostro pacchetto di obbligazioni, di titoli a breve che abbiamo è tale per cui l'avremmo potuto fare tutta quanta anche con le nostre forze. Con le vostre risorse, no, questo perché volevo arrivarla a chiedere naturalmente se anche ha fiducia nella solidità del sistema bancario italiano, perché qua ogni tanto torniamo a parlare anche di questo, sa com'è, ci sono dei temi che vanno di moda, una volta lo spread, una volta di nuovo le banche, quindi sulle banche italiane lei come la vede? Che anche in questo caso abbiamo avuto tre banche che saputo dell'operazione si sono precipitate a offrirci dei soldi e per cui sulle operazioni sane i soldi ci sono. Secondo me molta gente si lamenta che le banche non erogano fidi, ma probabilmente non erogano fidi a tutte quelle aziende che hanno per ogni lira dell'imprenditore 5 o magari 10 lire del sistema bancario ed è giusto che le banche non li diano i soldi a quei signori lì. Per le operazioni sane industriali noi abbiamo chiuso un'operazione di acquisizione con Interpump settimana scorsa e anche lì abbiamo avuto, non dico la fila, ma comunque molte banche disposte a finanziarcela, per cui non è vero che le banche italiane non erogano, sono ferme. Le banche italiane vanno sollecitate con progetti sani, giusti, con un significato industriale forte e non con un significato finanziario, e a quel punto i soldi ci sono. Presidente Tamburi, la ringrazio per essere stato con noi, perché so che peraltro per darci la sua disponibilità a partecipare a Focus Economia ha rinviato di qualche minuto anche un consiglio di amministrazione. In bocca al lupo per tutto, naturalmente torni a raccontarci di qualche bella operazione come quella di oggi. Buona giornata, buona serata. Con grande piacere, grazie a tutti voi. A presto, grazie. Adesso che cosa facciamo? Ci fermiamo? Portofino, Santa Margherita Ligure, Porto Cervo, eccetera, eccetera, ce ne occupiamo dopo. Intanto vi anticipo che la borsa italiana sta accingendosi a chiudere, anche se ancora manca qualche minuto, con un leggerissimo ribasso, meno 0,15%. A tra poco. Ed eccoci ritrovati in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani. Allora, stasera non ci siamo, eh? Allora, 15 gli esercizi controllati a Capri tra discoteche, gioiellerie, spa, bar, ristoranti. 10 tra Portofino e Santa Margherita Ligure, 14 tra Porto Cervo e Porto Rotondo, con un faro sulle discoteche con Lido, ristorante e bar. 26 le verifiche a Jesolo e Sottomarina di Chioggia. In Puglia, ispettori del fisco in 36 esercizi tra Molfetta, Bari, Torre a Mare, Margherita di Savoglia, Bisceglie, Barletta, Fasano ed altri paesi. E insomma, la maxi operazione dell'Agenzia delle Entrate nel weekend continua ancora a far parlare di sé, centinaia di controlli in locali e stabilimenti dei luoghi di vacanza VIP. Buonasera, Saverio Fossati del Sole 24 Ore. Buonasera. buonasera a tutti. Allora, chiaramente qualche sindaco ci è rimasto un po' male perché dicono, insomma, qua è un modo per far scappare i turisti. Qualcuno ha un commento un po' più prudente, per esempio leggevo le considerazioni del primo cittadino di Portofino, dice niente polemiche, Giorgio D'Alia, c'è chi si lamenta, ogni estate però è così, ormai siamo abituati, il sindaco di Capri, i turisti stanno tornando, giusto controllare, ma ci vuole discrezione. Insomma, questa grande operazione richiama già quella di cui tanto si era parlato tra le vacanze, diciamo, di Natale e Capodanno 2011-2012, se non mi ricordo male, Saverio. I risultati di questa maxi operazione del weekend quali sono? Allora, sono sempre uguali i risultati di queste maxi operazioni, perché anzi devo dire che sono uguali da qualche anno, perché nei primi anni beccavano sempre un ragguardevole numero di esercenti che non facevano lo scontrino. Adesso ovviamente gli esercenti sanno benissimo che in agosto e fra, diciamo, il 20 dicembre e il 7 gennaio passa la guardia di finanza. Quindi praticamente hanno riorganizzato le loro abitudini. Certo, poi luglio non li fanno, ecco. Vabbè, non è un problema, in settembre neppure. Comunque in realtà ha una duplice funzione questo blitz della guardia di finanza nelle località cosiddette VIP, perché serve da una parte sì a sorvegliare gli esercenti, cioè, che però sono già un pochettino avvertiti. Ma poi serve anche a un altro scopo importante, che è quello del redditometro, che è di grande attualità in questi giorni, e cioè loro fanno controllare se i clienti hanno fatto delle spese notevoli in determinati esercizi. Naturalmente quando uno va dal tabaccaio non spende nulla, quindi il problema sarà la responsabilità dell'esercente che non rilascia la scontrina, ma se va al ristorante con un gruppo di amici e spende tranquillamente 600 euro e ne ha dichiarati magari 15.000, evidentemente questo si serve alla guardia di finanza o all'agenzia delle entrate per andare a vedere che cosa il cliente ha dichiarato e come mai si può permettere di spendere magari 600 euro, oppure va in queste famose gioiellerie, no, di Portofino o di Cortina, spende 3-4.000 euro e magari ne dichiara 30.000. Ecco, quindi c'è questo scopo, perché vanno lì anche per beccare i clienti, non solo gli esercenti. Perfetto, allora, tra l'altro queste località naturalmente sono le VIP, come dicevamo, ma questi controlli a tappeto sono stati effettuati sulla base di una preventiva selezione e attività di analisi del rischio, quindi sostanzialmente sapevano già dove andare la Guardia di Finanza, non sono andati tipo a Portofino e sono entrati in qualunque locale, nella sostanza gli esercizi commerciali o le spa, come dicevamo, erano già state preventivamente individuate, giusto? Sì, soprattutto grazie agli studi di settore, cioè data la posizione del locale, dati i giorni di apertura, dato il tipo di attività esercitata, con gli studi di settore si stabilisce che quel locale deve incassare, ipotizziamo, non so, 100.000 euro l'anno. Se invece ne dichiara 70.000, evidentemente c'è qualcosa che non va, che non necessariamente nasconde un'evasione fiscale, può essere anche un momento di crisi, un periodo di chiusura dovuto alla malattia dell'esercente o cose del genere. Comunque loro, raccolti un certo numero di elementi in genere piuttosto cospicui, vanno a fare l'ispezione, e devo dire che il tasso di positività di queste ispezioni, di queste verifiche della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate è sempre elevatissimo, cioè su 100 che controllano 97 hanno qualcosa che non va. Ecco, tra tutti i comuni che abbiamo citato, Saverio, chi pecca di più? Questo non è dato sapere. No, mi sembra che soprattutto fosse ancora una volta Capri e Cortina. Cortina insomma in dicembre e Capri in questo estate. Periodo. Ma perché è abbastanza logico, perché c'è un'altissima concentrazione di eserciti, però le differenze sono minime ormai, un po' perché i controlli sono, per così dire, standardizzati, no? Cioè, e anche basati su questi elementi che vengono raccolti con molta cura, e un po' perché gli esercenti insomma si sono fatti un pochettino più attenti al rispetto della legge, e quindi sicuramente in quel periodo gli scontrini li fanno. Non basta questo. Poi i controlli vengono fatti anche sui periodi precedenti, si intende. Certo, no, diciamo che in questo periodo chiaramente fanno un po' più notizia, visto che tra l'altro noi ne cerchiamo anche un po' di più, perché come dire, siamo un po' più carenti da questo punto di vista. Adesso, a parte gli scherzi, non è vero che enfatizziamo inutilmente, però insomma mettiamo sotto i riflettori anche queste operazioni, perché ci sembra interessante farlo. C'è un ascoltatore che mi dice: se è contenta, signora Rosciani, io non devo essere contenta di niente, non mi piacciono per niente appunto queste situazioni, io vorrei vivere nel mondo migliore possibile, dove appunto i controlli di questo tipo del fisco appunto non siano necessari. E però, Saverio, purtroppo lo sono ancora qua, quindi insomma magari negli lo anni prossimi ancora, no, lo sono ancora molto. Devo dire che la crisi ha ovviamente spinto una parte degli evasori professionali a incrementare la loro astensione dal pagamento delle tasse, no? Cercando di mantenere lo stesso, diciamo, redditività, lo stesso tenore di vita, cercano di far pagare allo Stato quello che loro non incassano più con la loro attività e a scapito naturalmente delle tasse. È anche da dire però che in questo momento il fisco cerca anche di capire bene che cosa sta succedendo al singolo contribuente, imprenditore o lavoratore autonomo, perché effettivamente il volume d'affari è drasticamente diminuito in tanti settori, appunto a quello servono gli studi di settore e gli accorgimenti chiamati correttivi, insomma, sulla crisi che sono stati introdotti dalle norme recenti. Un'ultima cosa secondo me va detta importante, cioè stiamo parlando di accertato, la Guardia di Finanza, le entrate vanno lì e accertano un'evasione, facciamo conto di 100, il problema è che alla fine, una volta esaurita il procedimento, i ricorsi, il contenzioso, le tante scuse di tutti, si recupera 12 mediamente e quindi c'è questo enorme scarto fra le cifre proclamate, no? Abbiamo recuperato 100 miliardi, poi invece se ne recuperano appunto circa 12-13 all'anno, in concreto come incassi di riscossione. Capito. Saverio, adesso un'ultima cosa che per la verità è solo una banalissima curiosità, peraltro tu chiaramente non eri dietro l'Agenzia delle Entrate o la Finanza appunto mentre gli agenti effettuavano questi controlli, ma come avvengono? Si appostano, entrano e fanno, che ne so, un acquisto, come dire, a sorpresa, proprio per verificare se magari in quel momento lo scontrino viene rilasciato, oppure chiedono ai clienti che escono? Si sa qual è la dinamica, appunto, come si svolgono questi controlli? Hanno due possibilità, due strade, perseguono, o semplicemente entrano, si qualificano e iniziano a controllare tutta la contabilità in quel momento, proprio dall'inizio in poi, naturalmente verificando anche che vengano fatte regolarmente le ricevute fiscali, ma naturalmente dal momento in cui entrano poi possono controllare solamente quelli dei minuti immediatamente precedenti e successivi. Ecco, e invece quelli controlli che più in un certo senso impressionano il pubblico sono quelli in cui loro aspettano lì fuori dall'esercizio, mi fa vedere lo scontrino, e chiedono lo scontrino, oppure più semplicemente si appostano proprio letteralmente e controllano quanti scontrini vengono fatti, sì, con un'attività proprio un po' insomma, quindi state attenti se siete in queste località di vacanza, fatevi rilasciare lo scontrino appunto per il mojito della serata. Saverio, grazie per essere stato con noi, buona serata a te. Grazie e a voi, buone vacanze grazie. Naturalmente ci fermiamo adesso, sì, adesso credo che non sei pronta, Valeria, lo sai che adesso abbiamo la borsa e quindi sentiamo un po' come si è conclusa questa giornata sui mercati finanziari. No, lo so che non è ancora ora del traffico, lo so che è giunta l'ora che anch'io vado in vacanza, non sono lucidissima, no, tant'è vero che c'è un ascoltatore che mi contesta, secondo il quale appunto prima avrei detto bollesse in pentola piuttosto che bollisse. Io mi auguro, Alice, di non averlo detto, perché ci mancherebbe, solo che mi mancasse questo ABC, però insomma tutto è possibile, se fosse è stato un refuso, perché le posso assicurare che so coniugare correttamente questo verbo. Detto questo, Guido Maurino, Il Sole 24 Ore, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Commentiamo appunto la chiusura di questa giornata sui mercati intanto europei, che chiudono contrastati questa prima seduta della settimana. Per quello che riguarda Wall Street vedo un quadro anche in questo caso leggermente negativo, per il Dow Jones è -0,3%, Nasdaq poco al di sotto dello zero, Standard & Poor's -0,14%, diciamo che il mercato americano ha tutta l'aria di voler consolidare i record toccati di nuovo anche venerdì scorso. Per l'Europa invece giornata, come dire, senza infamia e senza lode, come si direbbe in questi casi, Guido. Sì, giornata agostana, visto che adesso inizierà un periodo in cui comunque anche i movimenti sulle piazze un po' di tutto il mondo saranno più deboli, visto che si avvicinano un po' per tutti le festività, e per cui le borse, pur rimanendo aperte, viaggiano fra scambi contenuti, e oggi soprattutto non c'erano grandi spunti, anche non c'erano grandi dati macroeconomici che spesso influenzano le borse. L'unico dato che è arrivato dagli Stati Uniti, che è un dato sul settore dei servizi, è stato positivo e oltre le attese, ma nemmeno questo è bastato a imprimere un'accelerazione, ecco, sui listini. E intanto la regina della giornata di Milano, Milano che chiude con un leggero ribasso, -0,13%, e media 7,4% tondo sul finale a 3,43 euro, peraltro Questa corsa è stata del tutto indipendente dalle vicende giudiziarie, appunto, di Silvio Berlusconi. È stata determinata stamattina da alcuni report di alcune banche d'affari, appunto, di alcuni analisti finanziari. Poi magari Guido li ricordiamo, che tra l'altro vedono come quotazione corretta per questo titolo 4,5 euro. Quindi teoricamente hai voglia ancora correre. Sì, teoricamente, certo, si tratta di attese sui 12 mesi, in genere sono queste le indicazioni che danno gli analisti, cioè la prospettiva a 12 mesi è di 4,5 euro per gli analisti di Deutsche Bank, che oggi hanno pubblicato uno studio sulla società in cui hanno alzato il giudizio da hold, quindi da mantenere, a buy, quindi comprare. Un giudizio che oggi ha contribuito ad alimentare gli acquisti sul titolo, aggiunto anche al fatto che spesso il titolo si muove un pochettino seguendo le vicende politiche, e nel fine settimana Silvio Berlusconi ha rassicurato sulla tenuta del governo, quindi questo aspetto, unito al fatto che gli analisti sono positivi sul titolo e guardano con fiducia alla raccolta pubblicitaria dopo le indicazioni positive che ha dato la società sul mese di luglio, ha contribuito a portare nuovamente acquisti sul titolo Mediaset. Allora, prima di raccontare le altre storie del giorno, se siamo pronti, direi di sentire i suggerimenti anche per chi è in viaggio. Poi parliamo anche di Azimut, di Fondiaria, di Campari, di Parmalat, peggior titolo, insieme a Telecom hanno perso fra il 2 e il 3,5%, tra poco. Eccoci ritrovati a Focus Economia con Guido Maurino, collega di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Commentiamo i temi del giorno. Abbiamo raccontato della giornata del miglior titolo, che è stato Mediaset, e il peggiore Parmalat, -3,68%. Che cosa è successo a Collecchio? Sì, puntualmente. Ma Collecchio, adesso, per modo di dire, continuiamo ancora a definirla la società di Collecchio, ma sì. Relativamente, almeno riguardo all'azionista che è francese. Per quello che riguarda Parmalat, nelle ultime due sedute il titolo aveva guadagnato oltre il 6%, 6,5%, dopo che alcuni media avevano scritto, erano tornati a scrivere che poteva arrivare un'OPA sulla società da parte dell'azionista di maggioranza Lactalis. Per due giorni il titolo ha corso, venerdì sera a mercati chiusi è arrivata la smentita dell'azionista francese Lactalis, e oggi le prese di beneficio sono immediatamente scattate. Il -3,68% di oggi si spiega soprattutto così. Telecom ha diffuso i conti venerdì scorso, già venerdì è stata una giornata molto difficile per il gruppo delle telecomunicazioni italiane, e appunto oggi arriva a gettare benzina un po' sul fuoco anche Fitch, l'agenzia di rating, Guido. Sì, ha tagliato il giudizio a BBB- meno da BBB, e con un outlook negativo. Si tratta sostanzialmente dell'ultimo gradino per un'agenzia di rating per quello che riguarda l'investment grade, dopodiché il titolo diventa un titolo spazzatura per le agenzie di rating. Il taglio riflette un po' il peggioramento delle condizioni del mercato domestico della telefonia, e quindi la pressione anche sul debito che ha Telecom, che è un debito superiore ai 28 miliardi, sulla sua capacità di ripagarlo. Era una notizia che in qualche modo ci si attendeva dopo i conti pubblicati la scorsa settimana, le indicazioni, il taglio delle indicazioni sul margine operativo lordo comunicato dalla società, e puntualmente oggi è arrivato. Allora, tra le altre aziende che sono altre società quotate che sono andate male, oggi abbiamo avuto Monte dei Paschi, -1,18%, ma questo è un titolo appunto che ci ha ormai abituato da tempo a una discreta volatilità, guadagna 2 punti, il giorno dopo li riperde. Insomma, tra l'altro oggi sono arrivate anche delle, come dire, tra virgolette, rassicurazioni sul tema del faro che l'Unione Europea ha puntato su Monte dei Paschi, chiedendo ai vertici del gruppo di indirizzare in maniera diversa il proprio piano industriale. Sul caso MPS è opinione comune che la tesi sostenuta dall'Italia in Europa sia corretta e che sia in errore Bruxelles. Questo è la comunicazione che è emersa al termine dell'incontro di oggi, questo pranzo di lavoro tra il governatore Visco, il premier Letta e il ministro dell'economia Saccomanni. Hanno così esaminato oggi proprio il caso della Commissione Europea e il giudizio che questa ha dato appunto sul piano di ristrutturazione della banca senese. Intesa San Paolo invece -1,12%. È Intesa, che cosa è successo? Pesano ancora i risultati semestrali diffusi venerdì, che hanno mostrato un pesante calo dell'utile netto, un risultato che è stato sotto le attese degli analisti. Oggi poi sono usciti diversi report, studi sui conti della società che li hanno analizzati da ogni punto di vista. Anche gli analisti sono un po' divisi su, da un lato c'è chi sottolinea come i risultati siano in calo e quindi si abbassino le prospettive per l'anno in corso, dall'altro c'è chi ha invece sottolinea la prudenza adottata dalla banca e il fatto che abbia una migliore copertura dei crediti problematici rispetto ai competitor, ai concorrenti sia europei che italiani. Ci sono queste due letture che vengono date oggi sui conti di Intesa San Paolo che sono un po' all'antitesi, però il mercato insomma oggi ha continuato a vendere il titolo, vendere. Insomma, ad abbandonarlo. Allora, oggi è andata molto bene Azimut, più 2%, ancora sui dati record per quello che riguarda la raccolta dei fondi comuni di investimento in Italia, risparmio gestito che va bene, di conseguenza la società leader nel settore, bene Campari, più 2,68, Fondiaria, di nuovo un rialzo dei due punti. Volevo raccontare un'ultima storia con te, Guido, Banca Carige, meno 6% a Piazza Affari, questa è una banca che in questo momento vive un po' di fibrillazione vertici. Sì, le quotazioni risentono del terremoto dell'ultima settimana che ha portato alle dimissioni di 8 consiglieri su 15 e alla conseguente decadenza dell'intero CDA. Adesso la banca dovrà convocare una nuova assemblea per rinnovare il consiglio di amministrazione e ci si interroga un po' sulla battaglia di potere che si sta consumando all'interno di Carige, fra la fondazione Carige che è azionista col 47% della banca e il presidente invece proprio dell'istituto, Giovanni Berneschi. La fondazione e il presidente della banca sono divisi sul piano di rafforzamento patrimoniale da 800 milioni che la banca ha annunciato nei mesi scorsi. La fondazione vorrebbe che Carige vendesse delle attività per reperire queste risorse, il presidente invece sottolinea il fatto che sarebbe necessario procedere a un aumento di capitale che però rischia di diluire la quota che la fondazione ha nella banca. Le dimissioni degli 8 consiglieri vanno lette un po' in quest'ottica, vanno letti in questa battaglia di potere che si sta consumando fra fondazione, diciamo, e vertici della banca. E allora, come dire, storia che continueremo sicuramente a monitorare anche nelle prossime giornate. Grazie a Guido Maurino, buona serata Guido, a presto. Buona serata. E noi adesso continuiamo, tra l'altro segnalo, visto che abbiamo esaminato fino ad ora in lungo e largo la seduta di Piazza Affari, domani il Sole 24 Ore nei suoi due appuntamenti quotidiani, Il tuo portafoglio e La tua casa, pubblica proprio un'analisi sulla riscossa di Piazza Affari. Da Piazza Affari adesso invece andiamo a Wall Street. Wall Street, esaminiamo quello che sta succedendo sul mercato americano. Moria Long, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Lo richiamiamo perché sicuramente ci sta simpatico, perché è molto bravo e soprattutto perché ha curato appunto un'analisi molto approfondita pubblicata ieri dal Sole 24 Ore. Il tema è rischio bolla a Wall Street, perché insomma il mercato americano, da quando c'è stato il crack di Lehman Brothers, ha guadagnato quasi il 170%. Questo calcolo è stato fatto dai famosi minimi del 9 marzo del 2009. Sì, esattamente, da quel giorno ha fatto 167% per essere precisi. Proprio precisi. Ecco, e diciamo che, come dire, il PIL statunitense non è cresciuto di pari passo. No, ovvio che una crescita del PIL del 167% neanche diciamo in Cina. Ma non siamo neanche forse ad un decimo. Ha fatto decimo, nello stesso periodo circa il 10%, che comunque che non è poco rispetto a quello che facciamo di qua, però diciamo che la crescita della borsa non è esattamente giustificata dalla crescita dell'economia reale. No, infatti è dovuta ad altre motivazioni. È tutto determinato appunto dalla grande liquidità che le banche centrali hanno appunto diffuso ed elargito al mercato. Però insomma il tema adesso è sostenibile questa crescita, visto anche oggi appunto che il mercato non vuole scendere, cioè non arrivano neanche microscopiche prese di profitto, il mercato consolida, vuole continuare a crescere. Moria, sì, la sensazione è questa, è più che altro per la scommessa che la Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, continuerà a foraggiare il sistema finanziario di liquidità. Fino ad oggi ha iniettato sul mercato 2.800 miliardi di dollari dalla crisi di Lehman Brothers fino ad oggi. Ci si aspetta che continui a farlo, magari leggermente inizierà a ridurlo più avanti, ma non più di tanto. Quindi il mercato continua a festeggiare. In realtà l'analisi che facevo andava a vedere come le valutazioni oggi a Wall Street sono un po' esagerate. Mm-hmm. Nel senso, i due fattori, oltre ovviamente alla liquidità della Federal Reserve, che è il fattore dominante che ha tirato su Wall Street, ci sono due fattori o alibi, chiamiamoli così, che tengono su le quotazioni. Il primo è l'andamento dell'economia americana, che è in ripresa, e il secondo è l'andamento degli utili aziendali, che sono in aumento. In realtà, ben guardando entrambe le cose, si scopre che in realtà non è giustificata una tale euforia a Wall Street. Prendiamo per esempio gli utili. Gli utili, quelli che stanno uscendo in questi giorni, i conti semestrali, mostrano che il 55% delle società ha battuto le stime degli analisti e il 75% le ha confermate, diciamo, non, o le ha battute o le ha confermato le stime, che è una cosa positiva. A guardar bene però si scopre che le stime degli analisti sono state più volte ribassate negli ultimi mesi. Erano molto basse, se si parte dal basso. Esattamente, erano più, ci si attendeva a ottobre un più 12% di utili nel 2013, oggi ci si attende un più 6,7%, quasi la metà. Io difatti in articoli c'è un po' come quei negozianti che prima alzano i prezzi e poi fanno gli sconti, no? Quindi è ovvio che le aziende battano le stime. Situazione tipica del periodo dei saldi, peraltro. Poi i commercianti si arrabbiano quando noi lo diciamo, però qualcuno lo fa e questo è vero. Oppure, se si vanno a vedere anche quanto pesano gli utili sul PIL americano, si scopre che attualmente sono oltre il 5%. La media storica, almeno dagli anni 90 ad oggi, è sotto il 4%, quindi ci sono tanti utili. Se si va a vedere bene come le aziende stanno facendo questi utili, si scopre che uno dei fattori dominanti è stato il taglio dei costi, il costo del personale innanzitutto. Certo, grandi ristrutturazioni. Il fatturato dal 2006 ad oggi non è aumentato tantissimo, sono aumentati molto più gli utili proprio perché le aziende hanno tirato un po' la cinghia. Il problema è che la cinghia a 800 punti non si può tirare, anche noi in Italia lo sappiamo bene, per cui bisogna vedere se l'economia effettivamente si riprenderà in maniera consistente da giustificare le aspettative di Wall Street sugli utili futuri. Diciamo che dal dato sulla disoccupazione di venerdì scorso ancora proprio così fiduciosi in questa direzione. No, anche il dato sul PIL, è uscito un dato sul PIL settimana scorsa, è salito dell'1,7% nel trimestre, ovviamente il dato annualizzato, ma quello del primo trimestre, quindi il trimestre precedente, è stato rivisto abbondantemente al ribasso. Di più, diciamo, gli analisti, gli economisti hanno tantissima fiducia su questa nuova tecnica che darà agli Stati Uniti l'indipendenza energetica tra pochi anni, quella del fracking, cioè la frantumazione idraulica delle rocce che permette di gas, no? Esattamente, di prendere gas con una nuova tecnica. Qualche analista qualche tempo fa mi ha detto, forse l'ho anche raccontato di nuovo questo episodio, che proprio sulla base di questa grande rivoluzione industriale che sta avvenendo negli Stati Uniti, della quale forse non si parla neanche moltissimo, appunto un gestore proprio di specializzato sul mercato americano mi ha detto: io non sono stupito del fatto che il mercato americano è cresciuto così tanto, mi stupisco del fatto che non sia cresciuto di più. C'è addirittura chi immagina una corsa ancora più accelerata. Tanta gente lo considera questa cosa veramente la rivoluzione epocale, la cosa che cambierà, renderà gli Stati Uniti il primo produttore di indipendente dall'OPEC. Esattamente, e quindi questo indubbiamente è una cosa molto positiva per l'economia. Va anche detto che questa tecnica ha fortissime implicazioni ambientali, per cui ci sono anche ogni medaglia. Quindi, come sempre, cauti, ha un paio di facce. Adesso non andiamo appunto a cercare tutte le aziende che estraggono lo shale gas. Un'ultima domanda, poi ci dobbiamo salutare fra 30 secondi. Tutta questa liquidità su quale società è andata in particolar modo? Esiste un monitoraggio di questo tipo? Ma sulle società, in realtà la liquidità è andata ovunque. Diciamoci che dal 2006, cioè dal 2007 ad oggi, le banche centrali di tutto il mondo hanno iniettato 22 mila miliardi di dollari di nuova liquidità. Questi sono tutti soldi che, come noi uomini comuni vediamo, non sono arrivati all'economia reale, se non in minima parte, sono rimasti nel mondo finanziario. Quindi gli investitori hanno tantissimi soldi da investire e li hanno investiti ovunque, inclusi i nostri BTP, questo soprattutto le banche italiane, ed è per questo che lo spread è così basso. Speriamo di non farci troppo male con lo scoppio di questa bolla, Moria. Quante puntate dovremo fare nei prossimi mesi? Speriamo che le banche centrali riescano a gestire la exit strategy in con gradualità e responsabilità. Grazie. Allora, sì, ho detto bollesse invece di bollisse, oggi pazienza, è andata così, non me ne ero nemmeno accorta. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci sentiamo domani. Buona serata. Radio 24. La passione si sente.